Vediamo chi è la persona più giovane in mezzo a noi, escluso gli ultimi, il più giovane, ma dove, il più giovane, Antonio, no, quanti anni hai? 35, chi ha meno di 35 anni? che chiesa giovane, chi ha meno di 25 anni? Giacinto, quanti anni hai Giacinto? 24 anni, vuoi tu pregare per questo momento che ci sta davanti? Uniamoci in preghiera con Giacinto, il nostro 24enne. Signore, io ti ringrazio, Padre, per questa serata. Io ti prego, Signore, per ogni cosa di cui parleremo, papà, che possa essere per la tua gloria, Signore. Sì. Metti le parole giuste, Signore, nella bocca del pastore, papà, e fa che ogni cosa, Padre, sia sotto il tuo controllo questa sera. Grazie, Gesù. Amen. Amen. Amen. Allora, vogliamo iniziare. Questa sera c'è da essere gioiosi, che ci siamo prima di tutto, perché la Chiesa non è un luogo che noi frequentiamo il weekend, ma la Chiesa è ciò che noi siamo e lo siamo anche in settimana. Amen? Siamo Chiesa anche stasera. Anzi, in settimana vedo che siamo pure più belli. Puoi dirlo alla persona che ti sta a fianco, dirgli in settimana sei anche più bello della domenica. A te. Ed è veramente bello poter essere qui, perché sappiamo che il nostro essere qui onora Dio, lo sapete? Noi mettiamo in pratica la parola di Dio essendo qui. Il nostro essere qui, il nostro stare qui onora un comandamento che è anche ampiamente descritto nella parola di Dio in Ebrei, credo che sia il capitolo 13, dice non mancate alle comuni adunanze, no? E in Atti noi vediamo che quando nasce la Chiesa era sempre unita, andavano di giorno in giorno in comunione, stavano insieme. Per questo uno dei fondamenti, uno dei pilastri che noi abbiamo dato a quello che è una caratteristica del membro della Chiesa pieno Vangelo è che c'è. È lo stare. Siete d'accordo con me? Quanti hanno seguito il corso di consolidamento 2? La maggior parte, chiunque non ha ancora fatto il corso di consolidamento 2, sta per iniziare il 9 maggio, giusto? Quindi il 9 maggio avete la possibilità di iscrivervi e ci sono tre caratteristiche fondamentali del membro della Chiesa Pieno Vangelo, tratte naturalmente dalla parola di Dio, e la prima, al primo posto è stare, esserci. Non puoi essere Chiesa se non ci sei, non puoi definirti membro di questa famiglia se non frequenti, non puoi essere parte di tutto questo e vivere la visione che Dio ci affida se sei a casa, se sei distante, se vieni una domenica sì e tre no. La realtà dei fatti è che la parola di Dio è anche chiara da questo punto di vista e noi, stando qui, onoriamo Dio. Amen? Quindi io sono orgoglioso di voi e spero che anche voi siete orgogliosi di me, che ci sono anch'io, puntualmente, giorno dopo giorno. E il bello di essere qui è che possiamo, attraverso l'incontro di condivisione, appunto alimentare quella che è la visione che Dio ci affida come Chiesa. Il nostro essere qui all'incontro di condivisione è proprio questo, aggiornarci, allinearci e comprendere qual è il cuore di Dio che sta pulsando, che batte, per la sua Chiesa qui a Modugno e attraverso la Chiesa di Modugno per le nazioni. Amen. Quindi siamo qui perché crediamo in una visione grande e abbiamo dei tempi davanti a noi davvero, davvero molto, molto belli, molto entusiasmanti. Siete d'accordo con me? Per chi ha percepito alcuni cambiamenti, alcune cose che stiamo facendo, ci stiamo mettendo, imboccando in tante sfide, in tante battaglie che però saranno gloriose per la conquista che il Signore ci permetterà di vedere. Amen? Quindi il bello di essere qui è che noi possiamo essere protagonisti di tutto questo. Dio non ha bisogno di te, non sei indispensabile nel regno di Dio. Ma la cosa bella è che Dio vuole te e ti coinvolge e ti chiama e ti dice: tu puoi essere protagonista di qualcosa che è molto più glorioso di organizzare una partita a pallone infrasettimanale, che è più glorioso di andare a prendere una pizza fuori con gli amici, tutte cose bellissime, no? Però a volte dobbiamo, è necessario rinunciare a quelle cose per far parte di qualcosa che è molto più glorioso, molto più grande, che costruisce la Chiesa di Dio e che permette a decine, a centinaia, e perché no, a migliaia di persone di conoscere il nome di Cristo Gesù, di vedere le loro vite cambiate per l'eternità, a famiglie di riunirsi, a matrimoni di ripristinarsi, a persone malate di guarire, a chi è cieco di vedere. Tutto questo tu non lo devi fare, nessuno ti sta costringendo a farlo, nessuno ti dice devi esserci, devi farlo. È un tuo privilegio, è una tua possibilità esserci e diventare protagonista di tutto questo, ed è troppo bello farne parte. Quindi grazie che ci sei, dillo anche alla persona che ti sta a fianco, grazie che ci sei, e cominciamo. Io questa sera voglio condividere quello che è la visione, come giustamente qualcuno ha detto domenica dando le notizie, il cuore che il pastore ha, che sono sempre io, per la Chiesa, è il cuore che io credo Dio ha per questa Chiesa, per questa casa, che è un cuore grande. Dio vuole farci realizzare grandi cose. Stasera andremo a toccare una stanza della nostra casa, la chiamiamo così, che è Mottola, ok? Noi siamo una casa fatta di tante stanze. È una stanza bellissima, è quella di Mottola. Naturalmente i più entusiasti sono i mottolesi. E nel pensare a Mottola e quello che è stato il percorso vissuto, in realtà il Signore mi ha portato a vedere delle foto, a fare delle ricerche, no? È stato bellissimo. Perché poi ho pensato a quello che è successo negli ultimi 10 anni di Chiesa. Quindi dal 2006 al 2016, che cosa è successo in questa casa? Che cosa è successo in questa chiesa? E per chi c'era, è successo tanto. Non so se ve ne siete resi conti, ma Dio ha fatto grandi cose. Noi siamo partiti nel 2006, eravamo ancora qui, in via Santa Lucia, ok? Questa non è una foto del 2006, ok? È una foto un po' più datata. Infatti, vedete me nell'angolino destro, quel bambino, adolescente, ragazzino un po' depresso. Ero lì e non sapevo, non è perché stavo, né che cosa, chi l'avrebbe mai immaginato, no? Che dopo un tot numero di anni mi sarei ritrovato qui. E non lo so, credo che dal mormorio stiamo riconoscendo un po' di facce, no? Stefano, guardate la sua faccia ora, è la stessa, non è cambiata. Stefano è lui, vedete che bello. Sempre così, Angela, bellissima lì e bellissima qui, anzi Stefano dice ancora più bella qui stasera. E poi non lo so se avete notato, però ci sono anche Nino e Angela si intravede, no? E c'è Antonio là, c'è pure lui. Si vestiva in modo originale lì e si continua a vestire in maniera originale. E cambia, non ha più la bandana, però c'ha la sciarpa stasera. Ed è troppo bello pensare che questo era il nostro locale e questo locale conteneva la chiesa. Nel 2006, dal 2007 in realtà, siamo passati in via Filzi e quindi da lì siamo passati qui. Non tutti hanno un buon ricordo di quel locale, lo percepisco. Era un tantino più grande, questo è a fine di un incontro, di un battesimo, e non so per chi c'era, era un interrato, si doveva scendere, dovevi proprio convincerti ad andare in chiesa, no? Dovevi proprio prendere, era come andare in apnea, no? Dovevi prendere il respiro su, e poi trattenere il respiro per tutti gli scalini e poi riprenderlo giù, perché letteralmente nella rampa c'era la fogna e puzzava, c'era un tanfo incredibile in quelle scale e tante zanzare. Chi è che si ricorda delle tante zanzare di via Filzi? Abbiamo passato la persecuzione. le afflizioni, le sofferenze, le piaghe. Però ce l'abbiamo fatta e siamo passati in questo locale. Perché siamo passati in questo locale? Per una visione di crescita. E già dalla foto precedente, anzi molti anni prima di quella foto, il Signore ha affidato a questa chiesa la visione di essere una grande chiesa per la gloria di Dio. Una chiesa che non si limitasse a vedersi piccola, che si doveva intrattenere, che doveva contenere i pochi credenti presenti, ma una chiesa con una grande visione, di raggiungere i popoli, di raggiungere le nazioni, di raggiungere le moltitudini, di essere una chiesa che diventasse grande, ma per la gloria non di un uomo, per un'etichetta, una denominazione, ma per la gloria di Dio stesso. E quello ci ha portato già in via Santa Lucia ad acquistare terreni, a comprare e credere in un edificio grande. Poi quando abbiamo trovato degli ostacoli non ci siamo fermati, abbiamo trovato via Filzi, 250 metri quadri, l'abbiamo presa, abbiamo creduto che poteva essere un valido passaggio e poi Dio ha aperto le porte e siamo passati qui. Ma mentre eravamo lì, Via Santa Lucia era ancora attiva e la prossima foto mostra altre facce conosciute, no? In prima fila vediamo Samuele in una maglietta che spero che lui abbia buttato. Fabio, non so se riconoscete Fabio, a fianco alla destra di Samuele. E poi Daniele Montarulo, non so se c'è qui stasera, però... Ecco il trio e poi dietro altre facce conosciute. Se non sbaglio, quello è Nico dell'Orco. Nico qualche capello fa, però posso dire sei più bello oggi rispetto ad allora. Quindi troppo bello esserci, c'è Michael. E la cosa bella di questa foto è che via Filzi non conteneva più la chiesa. La chiesa era cresciuta e conteneva a malapena solo i giovani upside down. Quella che state vedendo in questa foto è quello che state vedendo è un incontro dei giovani, la sala piena e tanti giovani che adoravano il Signore di sabato in sabato. E il Signore non ci ha permesso che ci accomodassimo in quella condizione, ma ci ha portato a credere di più e a credere di più. E oggi ci troviamo qui e non ci fermeremo di certo a credere in questo luogo. Non ci fermeremo nel momento in cui vedremo l'incontro del venerdì sera pieno di giovani in questa sala, perché Dio ha progetti più grandi, perché ci sono molte più altre persone che Dio vuole raggiungere e lo vuole fare attraverso di noi come Chiesa. Amen. Quindi continuiamo a credere, continuiamo a lottare, continuiamo a trovare la strada. Mottola ha avuto un po' le stesse situazioni, no? Siamo partiti in casa in realtà, era a casa di Giuseppe e Teresa che cominciavamo a fare le prime riunioni con quelle poche persone. Poi Dio ci ha dato grazia attraverso Nicola anche, che ha evangelizzato tante persone, le ha portate qui, ha creduto per la sua città salvezza, è bello averlo qui questa sera. E poi siamo passati in questo locale che il comune ci ha dato, si chiama Factory ed è una sala non più grande di 10-15 metri quadri e lì facevamo le nostre riunioni. Qui vedete solo me, però davanti a me c'erano al massimo 10-15 persone. A parte però una stagione nella quale abbiamo vissuto una moltiplicazione. Tutto a un tratto il gruppo si è raddoppiato. Che cosa è successo? Giuseppe ha incontrato dei ragazzi e li ha portati nel Factory. Come li ha portati? Non ha evangelizzato, non ha parlato loro di Gesù, li ha minacciati letteralmente. Questi erano 9 ragazzi che erano andati a rubare un divano dal locale suo. E il comandante dei carabinieri ha chiamato Giuseppe e in presenza di questi ragazzi ha detto: che vuoi fare? Vuoi esporre denuncia? E Giuseppe ha detto: no, non voglio esporre denuncia a questi ragazzi, ma voglio che loro vengano per i prossimi, non lo so, 2 mesi agli incontri che noi abbiamo ogni martedì sera al Factory. E quindi io tutto a un tratto, pronto, no, della mia predica per quelle solite 15 persone, ho visto che il Signore ha portato i giovani per i quali noi stavamo pregando da mesi. E la sala tutto a un tratto era piena di ragazzi. E io entusiasta che predicavo lì davanti non più a 15 persone, ma a 25 persone. E questi ragazzi che si vedeva che volevano stare in tutti i posti del mondo, tranne che lì davanti davanti a me ad ascoltare l'Evangelo, però qualcuno ha aperto il suo cuore e noi crediamo fermamente che un seme è stato seminato. Finiti quei 2 mesi, sono spariti. Credo che è stato il miglior antifurto per Giuseppe e credo che mai più questi ragazzi nella loro vita ruberanno un divano da un locale. La lezione l'hanno avuta. Però ecco, non siamo rimasti al factory. Il Signore ha aperto un'altra porta per Mottola e abbiamo ottenuto la possibilità di riunirci in questa sala comunale che è molto più capiente della sala convegni. E qui la vedete piena di mottolesi e modugnesi, per tutti quegli incontri dove anche voi siete venuti, martedì dopo martedì, e la cosa sta andando avanti. E gloria a Dio, adesso, proprio Giovanni mi aggiornava qualche giorno fa, la sala è così piena, più o meno così piena, però senza la presenza di modugnesi, il che è bello da un punto di vista, perché si vede che il gruppo di Mottola sta crescendo, però è anche un invito questa sera a partecipare agli incontri del martedì. Martedì andremo, porteremo la lode con Leo, ci sarò io, porterò un messaggio, e quindi venite, uniamoci, perché questa non è la chiesa di Mottola, non è la chiesa del gruppo dei mottolesi, è la nostra chiesa, è una stanza della Pieno Vangelo che è lì a Mottola per fare la differenza e per portare lo stesso spirito e la stessa cultura che anima questa casa. Siete contenti di questo? Ora, guardando queste foto, e poi ce ne sono altre, le andremo a vedere, mi è venuta in mente quella storia che noi tutti conosciamo molto bene in Numeri 13, che è la storia di quelle 12 spie che vengono mandate da parte del popolo di Israele ad esplorare la terra promessa, la terra di Canaan. Erano 12, uno per tribù. E tutti e 12 per 40 giorni esplorano questo territorio dove letteralmente scorreva il latte e il miele, fertile, abbondante, pieno di benedizioni, esattamente come Dio lo aveva descritto. Questi 12 tornano e portano il loro resoconto e credo che tutti noi conosciamo la storia. Solo due di queste 12 spie portano un resoconto positivo e cominciano a credere nella visione che hanno ottenuto. Gli altri 10 hanno parole diverse, hanno visto le stesse cose che gli altri 2 hanno visto, ma hanno preso quello che hanno visto e hanno dato voce a quello che hanno visto in una maniera completamente diversa. E noi siamo qui insieme, riuniti come Chiesa, e possiamo guardare alle sfide che ci stanno davanti, alle visioni che abbiamo, ai sogni che il Signore mette davanti, ma possiamo dare voce a quei sogni, a quelle visioni, in maniera completamente diversa. Possiamo essere come Giosuè e Caleb e dire, letteralmente loro hanno detto, possiamo riuscirci benissimo. Queste sono state le parole letterali di Caleb. Possiamo riuscirci benissimo, oppure fare come gli altri 10 e cominciare a descrivere i problemi, gli impedimenti, gli ostacoli, le cose che non vanno e anche prospettare con una voce profetica nel negativo le cose peggiori che si potevano prospettare, che si potrebbero prospettare. Ed è vero, quando noi guardiamo avanti possiamo scegliere se dare voce a quella visione profetica negativa, pessimista, che quelle 10 spie hanno avuto, arrivando a dire addirittura saremo catturati, le nostre mogli diventeranno prigioniere e i nostri figli saranno schiavi di questi popoli. Niente di questo si prospettava davanti a loro, non hanno visto niente di questo, ma hanno avuto una visione distorta e delle parole profetiche in negativo, che sono state esattamente le cose che poi loro hanno vissuto. E noi questa sera abbiamo la scelta, davanti a quello che Dio porta nella Chiesa, ai cambiamenti che anche viviamo nella Chiesa, di dire possiamo riuscirci benissimo, oppure di poter dire tutt'altro. Cosa vuoi dire tu questa sera? Quale visione vuoi avere questa sera? Io credo che se pensiamo a Mottola, se pensiamo alla città di Mottola, possiamo soffermarci davanti a tutti gli impedimenti che questo paesino ha, a tutte le porte che ci sono state chiuse in questi anni nel non vedere l'Evangelo arrivare nelle famiglie, nelle persone per le quali abbiamo così tanto lottato e pregato e digiunato. Oppure possiamo avere una visione profetica e credere che quelle persone o tante altre, avendo ricevuto l'Evangelo, verranno al Signore e che noi vedremo una chiesa crescente in quel luogo e sempre più persone a rendersi a Cristo Gesù. È quello che decidiamo noi di fare, è la visione che noi vogliamo vedere. Possiamo vedere Mottola come un deserto oppure lo possiamo vedere come una terra fertile. Possiamo vedere Mottola come un paesino che nessuno si calcola oppure possiamo vedere quei 15.000 abitanti come tutti affamati alla ricerca di Dio attraverso la religione, le vie più sbagliate e noi essere quella risposta. Cosa scegliamo di fare? E lo possiamo dire esattamente la stessa cosa per i nostri parenti, per i nostri amici, per i nostri colleghi di lavoro, per i nostri compagni di banco. Che cosa stai credendo? Che cosa stai vedendo? Stai vedendo un impedimento o stai vedendo un'opportunità? Io voglio essere un Caleb, io voglio essere un Giosuè, io voglio poter dire si può fare benissimo, si può fare benissimo. Si può fare benissimo che noi come Chiesa arriviamo non solo a Mottola ma anche ad altre città della regione Puglia. Si può fare benissimo che da questa Chiesa partino missionari che raggiungano i posti più bui del mondo. Si può fare benissimo che noi scriviamo nuova musica, componiamo nuovi brani per adorare il Signore in una maniera efficace. Si può fare benissimo che apriamo più gruppi familiari in più paesi nella provincia di Bari e oltre. Si può fare benissimo che noi possiamo organizzare una conferenza di chiesa che sia di impatto nazionale e che abbia ripercussione in tutta la nostra regione. Si può fare benissimo. Io in questo credo, che noi possiamo farlo benissimo. Amen. Dio si arrabbia. Dio si arrabbia letteralmente con il popolo, si arrabbia con questi 10, si arrabbia con loro. Pensate un po' che dopo che il popolo ascolta il resoconto delle 12 spie, questi cominciano letteralmente a piangere e a mormorare, a strapparsi le veste, a fare una tragedia. Perché? Perché queste 12 spie sono tornate per dire è esattamente come Dio ce l'ha descritto. È vero, ci sono delle sfide, ma è esattamente bellissimo e buono come Dio ce l'ha descritto. All'udire quelle parole hanno avuto un'interpretazione tutta loro. Si sono lamentati, hanno cominciato a criticare. Addirittura qualcuno ha cominciato a dire costituiamoci un altro leader che ci porti indietro in Egitto perché lì stavamo meglio. Non è incredibile quanto noi possiamo veramente perdere il controllo delle cose? Non fidarti dei tuoi sentimenti. Posso dirti questa sera, non fidarti dei tuoi sentimenti. Non fidarti di quello che senti, di quello che provi, davanti al cambiamento, davanti alle nuove battaglie. Non ti fidare del tuo sentimento, perché finirai per fare di una festa una tragedia, di un trionfo un lutto. Non ti fidare dei tuoi sentimenti, ti possono portare molto lontano. E la maggioranza ci insegna questa storia. La maggioranza, 10 su 12, si sono lamentati. Il popolo intero si è lamentato. E Dio, nella sua rabbia, sapete cosa ha detto? Ha detto semplicemente, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Come a dire, io avevo altri piani. Io avevo altri pensieri, questa è la vostra terra, ma voi avete scelto una visione diversa, voi avete confessato un'altra realtà dei fatti, voi non avete avuto fede e io vi farò quello che voi avete detto. E di fatto tutta quella generazione è morta nel deserto ed è successo letteralmente come loro hanno prospettato le cose, è stata una tragedia. È stata veramente una tragedia, perché non sono neanche tornati in Egitto, sono rimasti nel deserto e per ogni giorno che questi esploratori sono stati nella terra di Canaan è corrisposto un anno nel deserto, per 40 anni sono rimasti nel deserto. Io non voglio rimanere nel deserto, io voglio entrare nella terra promessa, io voglio essere con Caleb, io voglio essere con Giosuè e io voglio essere con la nuova generazione. Sapete, la nuova generazione che Dio si è scelta è la generazione dai 20 anni in giù. Come a dire, tutti coloro che hanno più di 20 anni Voi rimarrete nel deserto perché non avete creduto a sufficienza nella visione nuova che io vi ho dato. A tutti i giovani invece do quello che è la terra promessa. Do quelle visioni e permetto a loro di entrare in quelle che sono state le cose che io ho previsto. Ora lo posso dire liberamente perché ho più di 20 anni oramai, ne ho 35. E io non voglio far parte, non voglio permettere che la generazione che mi segua, che ottenga quello che il Signore ha promesso a me. Io voglio lottare per quelle cose che Dio ha in mente per noi. Si può fare benissimo, si può fare benissimo e non dobbiamo fidarci dei nostri sentimenti. Dobbiamo avere discernimento perché dobbiamo essere tanto consapevoli della visione che Dio ci dà quanto dobbiamo essere consapevoli che c'è un nemico che non vuole che noi raggiungiamo quella visione. È importante tanto essere alimentati dalla gioia e dell'entusiasmo delle cose nuove che Dio ha per noi quanto essere avveduti, astuti e attenti a quello che è la trappola, i bastoni tra le ruote, gli impedimenti e lo scoraggiamento che il diavolo ci vuole mettere per non farci arrivare nella meta che Dio ha per noi. Sii saggio nell'avere discernimento, dov'è Dio e dov'è il diavolo. Anche Gesù ha avuto questo tipo di discernimento. A Pietro a un certo punto ha detto vai via da me Satana, perché tu non hai il senso alcuno delle cose di Dio. E Pietro in quell'occasione stava dicendo non ti accadrà niente di tutto questo. Quella visione che stai, quella missione che stai enunciando con le tue parole, quello che stai profetizzando che accadrà per la salvezza delle nazioni, perché questo è quello che Gesù stava dicendo, stava raccontando che sarebbe morto e poi risorto dopo 3 giorni, Pietro viene, interviene e dice no, non ti accadrà niente di tutto questo. Gesù ha avuto discernimento nel riconoscere questo è un impedimento di Satana, è lui che mi vuole fermare, è lui che vuole farmi vedere un'altra realtà dei fatti, è lui che mi vuole dare un'altra visione, è lui che non vuole permettere al popolo di raggiungere la terra promessa, ma io sono quel nuovo Mosè che porterò il mio popolo nella terra promessa che ho stabilito per loro e non accetterò quella che è la voce del bugiardo, quella che è la voce del nemico e le sue insinuazioni per fermarmi. Non farti fermare. Non accettare tutti i sentimenti e abbi una visione profetica, perché Dio ti ha chiamato per fare cose più grandi che organizzare partite di calcetto. È l'esempio che mi viene stasera, non lo so perché. C'è qualcuno che organizza partite di calcetto qui, mi dispiace, scusami Claudio, nessuna allusione a te. Però sapete, questo è ciò che ha animato quel ragazzino che avete visto nella prima foto, nell'angolino, ad essere qui oggi e a credere e a vivere una vita, essere entusiasta della vita che vive. Io sono entusiasta della vita che vivo. È vero, ci sono tante lotte, tante battaglie, c'è il nemico con i bastoni, se ne inventa ogni giorno uno nuovo di bastone da mettere nelle ruote. Però io non potrei desiderare una vita migliore. Una vita straordinaria come questa, chi l'avrebbe mai immaginato? Quel ragazzino non sognava neanche di poter riuscire a organizzare partite di calcetto, ma Dio l'ha reso capace di poter sognare in grande, vivere con una grande famiglia, una grande chiesa, sogni che sono ben al di là di me, di noi tutti messi insieme, di chiunque verrà dopo. Non è questa una cosa meravigliosa? Noi siamo chiamati a cose grandi. Tu sei chiamato a una vita straordinaria. Tu sei chiamato a Canaan, ed è vero ci sono i giganti, ed è vero ci saranno le battaglie, ed è vero ci sono delle guerre da fare, ma Dio ti dice si può fare benissimo. Si può fare benissimo perché non sei tu che lo devi fare, non sono le tue capacità che devono emergere, non è la tua forza. Si può fare benissimo perché sono io che ti chiamo in quel posto e sarò io a permetterti di fare tutto questo. Non dipende da quanto sai, da quanto puoi, da quante capacità hai. Dipende dalla fede che metti in quello che è il piano che Dio ha. E io voglio aprire una parentesi su questo, perché vedete, la visione l'hanno avuta tutte e 12 le spie, ma in 2 hanno avuto fede. E una visione senza fede è come una bella macchina ma senza motore. Tu puoi credere in cose in grandi, ma se non hai fede e quella fede non ti mobilita a fare passi coraggiosi, tu non otterrai mai quella visione. Quindi hai bisogno di avere tanta fede. Io credo che tutti noi abbiamo fede per la nostra Chiesa. Tutti noi abbiamo fede per l'impossibile che Dio vuole realizzare attraverso di noi. Tutti noi abbiamo fede in un Dio dei miracoli. Tutti noi abbiamo fede in un Dio che chiama gli ultimi ad essere primi. Tutti noi abbiamo fede di un Dio che rende capace gli incapaci. Ma la fede è qualcosa che dobbiamo alimentare. La fede parte da te stesso. Stai credendo realmente che puoi l'impossibile? Stai credendo realmente che tu puoi guidare un gruppo familiare, magari se non lo fai ancora, che tu puoi prendere nuove responsabilità all'interno della Chiesa? Stai credendo realmente che tu puoi allinearti alla visione di Chiesa e spendere una serata in più per investirla per l'avanzamento del Regno di Dio? Stai avendo fede di poter investire di più dei tuoi soldi? Stai avendo fede che quello non sarà un furto, ma sarà un arricchimento, e sì, sarà un combattimento, ma Dio ti permetterà di vincere? Stai avendo fede, perché una visione senza fede rimane infruttuosa. Abbiamo bisogno di avere fede, come tutti e 12 le spie hanno avuto, ma abbiamo ancora più bisogno di quella fede che quei due hanno avuto. Visione accompagnata dalla fede. E io credo che questa è una casa piena di fede. E la fede è ciò che ci spinge a pregare. Noi non possiamo pregare se non attraverso la fede. E io con voi voglio pregare per questa regione. Non più solo per Modugno. E non più solo neanche per la provincia di Bari. Voglio cominciare a pregare per la provincia di Taranto. Mottola, nella provincia di Taranto. Voglio cominciare a pregare per la provincia di Brindisi, voglio cominciare a pregare per la provincia di Lecce, voglio cominciare a pregare per la provincia di Foggia, voglio cominciare a pregare per la provincia del Bat. Ci sono paesi e paesi non raggiunti dall'Evangelo, ci sono città intere, numerosissime, di decine di migliaia di persone, anzi centinaia di persone, di centinaia di migliaia di persone ancora non raggiunte. Noi non siamo qui per essere una chiesa che gode di questo posto, che si rinchiude in queste quattro mura. Noi siamo una chiesa che vuole credere in confini nuovi, in territori più larghi, in posti dove nessuno è andato, e noi vogliamo raggiungere quei posti. Vogliamo andare oltre la Puglia. Io credo in quello che stiamo facendo. Io credo che il fatto che Marta sia dov'è è qualcosa che debba farmi sentire orgoglioso di chi sono. Del fatto che non siamo sconnessi, che non stiamo vivendo visioni diverse, ma del privilegio che lei è lì perché io sono qui, e io sono qui perché lei è lì, e le due cose vanno di pari passo. E noi possiamo credere non solo per Marta, ma anche per nuovi candidati, per nuovi missionari. E quando io vedo quel terribile foglio Excel che mi manda Luciana, e non perché è Luciana che me lo manda, anzi fa un ottimo lavoro, ma quel terribile foglio Excel che dice tutte le cifre, e andiamo, entriamo in tutti i conti, e quello che raccogliamo nelle decime, quello che raccogliamo nelle offerte, io mi metto le mani in testa e dico: Signore, come possiamo? Come possiamo mandare altri? Come possiamo aprire nuove stanze? E il Signore mi risponde: si può fare benissimo. Chiesa, si può fare benissimo, perché non siamo noi a farlo, ma è Dio che ci chiama a farlo. Amen. Si può fare benissimo. Dillo alla persona che ti sta a fianco: si può fare benissimo. Cosa abbiamo vissuto nell'ultimo anno? Beh, io tanto, non so. Non so voi, però nell'ultimo anno è successo questo: abbiamo avuto un avvicendamento. Io ho guidato, quindi possiamo rimettere anche la foto di Mottola. Ho guidato il gruppo di Mottola per 3 anni, ok, dal 2013 al 2015. E poi l'anno scorso c'è stato l'avvicendamento e io e papà ci siamo dati il cambio praticamente. Io ho preso responsabilità qui a Modugno e il pastore, reverendo, ha preso responsabilità su Mottola e ha guidato Mottola decisamente in nuovi territori e ha creduto in nuove persone. Quanto abbiamo da attingere ancora e per tutti gli anni che ha da vivere da mio padre? Vogliamo ringraziarlo. Grazie. E a mamma non lo vogliamo fare un applauso? C'è qualcuno che ha detto: dietro ogni uomo, grande uomo di Dio, c'è una grande donna di Dio. Ed è così, e io ho il privilegio più grande di vivere ancora per poco, però ancora di vivere sotto lo stesso tetto di questa coppia meravigliosa, che diventa ancora oggi di ispirazione per ciascuno di noi nel credere. E dicevo, papà ha portato il gruppo di Mottola a un livello successivo, credendo, investendo, rilasciando nuovi talenti, nuove capacità, nuove persone. E quando andate oggi a Mottola vedete quelle stesse persone che c'erano sin dall'inizio, ma completamente diverse. E questa è l'opera dello Spirito Santo, che rende capaci coloro che sembrano non essere capaci, perché all'inizio nessuno di noi sembrava capace, nessuno di noi sembra capace, nessuno di noi mai sarà capace. Però Dio poi fa un'opera meravigliosa e cambia i cuori e mette sicurezza e mette il suo spirito e permette alla sua Chiesa di crescere attraverso persone che non hanno qualità, talenti necessariamente stravolgenti, ma hanno una disponibilità e un desiderio di servire che mettono a disposizione. Dio arricchisce. E per questo anno il Signore ha arricchito davvero tanto il gruppo di Mottola, al punto che noi siamo arrivati a un paio di mesi fa a dire: è pronto, è sicuramente pronto, questo gruppo è pronto a portare avanti l'opera sempre insieme, perché questo è quello che noi vogliamo fare, ma anche sotto un'altra responsabilità, sotto un altro coordinamento, che è quello di Giovanni Lupoli. Infatti la prossima foto. Ora Giovanni è un ragazzo, un uomo meraviglioso, ha un cuore per Dio, ha un cuore per l'opera, ed è la cosa, una delle caratteristiche più belle di Giovanni è che quando tu gli dici di fare qualcosa, la prima cosa che ti dice è: no, non lo posso fare. È bellissimo, perché tu proprio non puoi trovare altre persone così entusiasmanti come lui, perché tu vai e dici: Giovanni, puoi predicare martedì? No, non si può fare. Che ne dici se ti metto in turnazione fra un mese? No, non si può fare. Fra tre mesi, ti do 3 mesi di tempo per predicare. Facciamo fra 3 mesi. No, non bastano. Però poi lo fa e si è sempre sfidato e si è sempre messo in gioco e ha fatto quello che poteva fare e ancora di più ha fatto quello che non poteva fare, quello che non si sentiva di fare. E stasera lo vogliamo conoscere un po' meglio, quindi gli farò qualche domanda e lo invito qua. Naturalmente ho messo gli sgabelli perché sennò sfiguro se stiamo in piedi tutti e due. E quindi Giovanni Lupoli. C'ho due fari belli puntati però. Sì, sì. Sei emozionato? No, ora no. No, sono a casa. Sei a casa. Sono a casa. Ci dici la tua testimonianza, Giova? Dall'inizio? Breve, cioè non abbiamo molto tempo. Brevemente la tua testimonianza. 36 anni, devo dire, della mia vita. No. Buonasera a tutti alla fine. Io sono Giovanni. Credo che tutti mi conoscete, no? La domenica ogni tanto mi vedete. No, sì, raccontare la mia testimonianza. Prima di tutto, grazie per... perché mi sento a casa, veramente. Sono nato in una famiglia dove mi è sempre stato insegnato dei valori cristiani per via di mia madre, della fede di mia madre, ma come spesso succede, quando si arriva a un'età adolescenziale, a volte gli amici ti possono influenzare. E io fino a 14 anni ero un ragazzo modello che frequentava la chiesa, che viveva secondo i principi di Dio, ma poi gli amici e anche il mio modo di essere trasportato facilmente dai miei amici, ho abbandonato tutto, ho preso le distanze da Dio e vivevo una fede cristiana fai da te. Non so quanti conoscono la fede cristiana fai da te, che decido io le cose che vanno bene e le cose che vanno male. E stando lontano da Dio ho provato tutto quello che il mondo mi poteva offrire, quasi tutto. E questo mi ha portato tristezza quando rientravo a casa dopo le bravate, dopo le serate trascorse con i miei amici. E dopo 15 anni, quindi da 14 ai 29 anni, sono stato lontano da Dio. Vivevo una vita lontano da Dio, nel peccato, nei miei vizi, nella mia schiavitù. E dopo 15 anni Dio, e i modi di Dio sono sempre diversi l'un l'altro, no? E usa dei modi strani a volte anche anomali. A me si è usato di un funerale di un mio parente, e lì Dio ha parlato al mio cuore, e attraverso una persona che mi parlava di un Gesù in maniera molto più semplice, di un Gesù che è vivo, di un Gesù che non è regola, ma di un Gesù che dà grazia, di un Gesù che non toglie, ma aggiunge. E questo mi ha affascinato e mi portava a rileggere di nuovo quella Bibbia che era su quel comodino a fianco al mio letto, perché mia madre ogni mattina la metteva su e le sue preghiere oggi sono state realizzate. Ed è bellissimo vedere come Dio è fedele. Dio è fedele ad ogni nostra preghiera. E Dio ha voluto anche portarmi fuori da quel paesino che è Mottola per fare questa esperienza con Dio. Ho accettato Dio non in una chiesa, ma stando a casa. Ho piegato le mie ginocchia e ho detto una semplice preghiera fatta col cuore. Ho detto: se tu veramente ci sei, se tu veramente sei quel Dio che dà pace, dà gioia e toglie quella tristezza, toglie quelle angosce, beh allora io sono pronto a aprire il mio cuore. E Dio non ha aspettato molto, Dio è venuto, mi ha abbracciato con il suo amore e ha cambiato la mia vita. E ogni giorno scelgo di vivere in quell'amore, ogni giorno ancora oggi scelgo di vivere quella pace, scelgo di vivere in quella grazia. E non solo, a Torino, perché sono stato a Torino, tutto ciò è successo a Torino, sono salito per stare una settimana e in quella settimana ho conosciuto Gesù, ho trovato anche un lavoro che mi ha permesso di trasformare quella settimana a 5 anni. Quindi pensate un po' a mia madre che nel sentirsi dire vado via per una settimana, poi è salita dopo 3 mesi per vedere me in una chiesa a battezzarmi. Quindi provate a immaginare. Però il lavoro è finito. Dopo 5 anni il lavoro è finito. E mo? Dio, ma io non voglio andare a Mottola. Perché devo ritornare a Mottola? Qui ho conosciuto te, ho una chiesa, sto bene qua. Ti prego, fammi rimanere qua. E per un mese era questa la mia preghiera. Era la mia volontà, non quella di Dio. Quella di Dio invece era un'altra volontà, ed era quella che io ritornassi nel mio paese e incontrassi una chiesa. Una chiesa dove dal primo giorno che io sono entrato mi sono sentito in famiglia, mi sono sentito a casa. E sapete, non è stato il messaggio, non sono state le luci che il primo incontro quando sono entrato mi ha colpito. Sapete cos'è stato? Sono state quelle due persone che erano lì fuori con la targhetta staff che mi hanno abbracciato, mi hanno dato delle parole di incoraggiamento ed è stato lì che io mi sono sentito a casa. Quindi se sei parte dell'accoglienza non sottovalutare, perché è un ruolo fondamentale, forse più di chi predica forse il messaggio. Però a me ha colpito l'amore che io ho respirato qui in questo luogo. E poi sono arrivato a Mottola e di lì il lavoro non è più tornato, o meglio, è tornato, però è diverso, lavoro per Dio, e questo è un privilegio veramente, è un onore poter servire. Ed è stato bello, e io voglio spendere una nota per il pastore, perché veramente quello che è stato fatto, che è stato detto, è vero, a Mottola, è partito dal sì del pastore. E dietro quel sì si è verificata l'opera di Dio, che ancora oggi sta continuando. Ed è bello veramente essere parte dell'opera, non nostra, ma quella che Dio sta preparando, ha preparato già da tempo e la vuole portare avanti. Ed è bello che noi possiamo continuare quest'opera. Riuscite a vedere il dono che il Signore ha messo in questo ragazzo, che è di incoraggiamento, che è di insegnamento, che è un predicatore fenomenale, Giovanni, ed è bellissimo. Per questo dovreste andare il martedì a Mottola, e presto lo sentiremo a Modugno, quindi non c'è da andare a Mottola. Però quello che... Ora lui sbianca e mi dirà no, naturalmente, no. Però poi rientrerà in sé. Ora, una domanda che voglio farti, un'altra domanda che voglio farti, è il cuore che hai per Mottola. Cosa sta lavorando il gruppo adesso a Mottola? Sì, beh, in parte, pastore, l'hai già detto tu nella prima parte, ed è vedere le famiglie, le nostre famiglie, ancora vivere in quella, sotto quella cappa di religiosità. Mottola è un paese dove vive sotto la cappa della religiosità, sotto pensieri di giudizio. E questo è triste. È triste perché noi che abbiamo conosciuto un Dio vivente sappiamo che stanno ascoltando le bugie del diavolo. E la mia preghiera, il mio cuore, ma credo che sia il cuore anche del pastore, come anche tutti gli altri di Mottola che stanno lavorando per il regno di Dio, è proprio quello che attraverso il Vangelo tante persone, iniziando dalle nostre famiglie, possono tornare a vivere non una religione, ma una relazione con Dio. Questo è il mio cuore, questo è il cuore di tanti di Mottola, di vedere tante anime strappate al nemico e vivere quel Dio che è vivente, che ha grandi piani e grandi sogni per le loro vite, così come ce l'ha per noi. Qual è la squadra principale di Mottola? Chi sono i collaboratori che adesso sono attivi nel vedere grandi sogni realizzarsi a Mottola? Vuoi che faccia i nomi? Sì, sì, fai i nomi. Anche perché vedo che c'è qualcuno qua, allora così imbarazziamo anche loro. C'è qualcuno. Sì, sì, grazie, passo. Bene, bene, sì. Abbiamo colui che minaccia, che è un pezzo forte, no, scherzi a parte. Lui evangelizza con una strategia tutta sua. Sì, sì, sì. Lui evangelizza. Siamo 7, sono 7 fantastici collaboratori che hanno veramente cuore per Dio, e io senza di loro non posso fare quello che faccio, perché io sono single come te, pastore, quindi siamo messi bene. Amen. Amen. Ma loro, a differenza mia, hanno famiglia, figli, attività, e vedo il loro sacrificio, e questo è un qualcosa da onorare, ed è bello poter vivere con loro questa opera di Dio che sta facendo. Ed è Giuseppe, Giovanni e Cassiana, Mimma, Teresa, abbiamo Giorgia. Di più, oh! Abbiamo adottato anche Giorgia, quindi fa parte della nostra squadra. Sì, c'è da spendere, due parole vanno dette. Cioè, Giorgia è un po' una missionaria nella regione, si sposta da Cellammare a Mottola ogni 2 giorni. Con la 600, trasformata. Però siamo grati a Dio perché è veramente stata di supporto, di aiuto con il pastore in questo anno e continua ad essere un supporto importante. Quindi siamo grati a Dio per questo. Vogliamo ringraziare anche Giorgia con un applauso. Si è fatta pure un cofano nuovo. Sì. Ha pure un cofano nuovo. Quindi. Quello che vogliamo fare ora è pregare. Vogliamo pregare per Giovanni, per tutta la squadra in realtà, e quindi io vorrei però anche sottolineare qualcosa, è molto importante. Cosa diventa Giovanni? Un leader, un responsabile, un ministro, un coordinatore? In realtà poco conta, e noi non andiamo dietro a dei titoli, non siamo qui per accalappiarci una posizione, un ruolo, un titolo. Il vero e più importante titolo che mettiamo sulle nostre vite è servi. Noi siamo qui per servire. E quella che è la definizione di leadership di Gesù è che il maggiore fra di voi sia il servo di tutti. Quindi se vuoi essere il maggiore nell'avanzamento del regno di Dio e per la realizzazione della visione della Chiesa di Dio, quello che puoi aspirare, ciò a cui devi mirare, è l'essere servo, è il poter servire il maggior numero. Non conta il titolo, la posizione, se predichi, se non predichi, se fai questa cosa, se guidi questo gruppo, se fai... È il servire che conta agli occhi di Dio. E forse fra di noi può contare altro, ma chi se ne frega, non è questo che noi andiamo cercando, non è il cercare la gloria l'uno dell'altro, noi vogliamo la gloria di Dio. Io non posso andare a Dio un giorno e dire: Signore, non ti è piaciuto che ho fatto il pastore per tanti anni per te? Io l'unica cosa che potrò dire: Signore, sono stato grato di poterti servire quale pastore, tanto quanto nell'eccellenza, quanto tanto nel ministero di lode o in qualsiasi parte dove tu mi hai chiamato a fare qualcosa. E che sia questo il nostro cuore, fratelli e sorelle, perché poi ci nominiamo leader, però proprio in quel passaggio dove Gesù dice il più grande, il maggiore fra di voi sia il servo di tutti, poco prima dice: non fatevi chiamare, non andate dietro il titolo, non andate dietro la posizione. Vuoi fare la differenza nella Chiesa? Vuoi fare la differenza nella visione che abbiamo come Pieno Vangelo? Allora incoraggia chi prende un ruolo, chi prende un livello di servizio maggiore, e affiancati a lui per servire con lui e maggiormente con lui. Questo è ciò che conta. E lo dico con tanta enfasi, perché a volte non comprendiamo bene quanto l'avvicendarci, il prendere delle responsabilità, veramente non ha niente a che fare con un ruolo e un titolo. E chi ha un ruolo e un titolo ce l'ha solo perché ha compreso bene il senso e il valore del servizio. E nel momento in cui perde il valore del servizio, molto probabilmente in questa Chiesa perderà anche il ruolo e il titolo, perché noi non andiamo dietro questo, vogliamo servitori di Cristo Gesù, umili servitori di Cristo Gesù, che vogliono andare dietro una visione e vogliono servire una visione, vogliono servire una causa, non vogliono servire se stessi, il proprio ego, il proprio apparire, il proprio essere al centro della situazione. Questo non è il nostro cuore. Amen? Amen. Quindi vogliamo alzarci in piedi. Io voglio invitare tutto il team di Mottola che è qui, anzi tutti i mottolesi che sono qui, e vogliamo pregare per Mottola e per Giovanni in modo particolare. Voglio invitare anche Nicola e tutta la squadra pastorale. Vorrei chiedere a tutta la squadra pastorale che è qui di venire e pregare. So che ci siete anche in regia. Credo che possa funzionare il tutto anche col pilota automatico. Ci crediamo a questo. Quindi venite anche voi. Vorrei chiedere proprio a papà di pregare per Giovanni e per questa nuova stagione che abbiamo davanti. Padre, vogliamo dirti semplicemente grazie. Le tue promesse sono così tanto vere che noi le possiamo toccare oltre che ammirare. E Signore, grazie per tutto il lavoro svolto per la città di Mottola e quando si svolgerà, ma anche per le persone, oh Signore, per i tuoi servitori. Grazie per ognuno che si è dato. Signore, tu lo benedirai in maniera potente facendo vedere il frutto tuo. E Signore, insieme come Chiesa, insieme come collaboratori, insieme come servi tuoi, vogliamo presentare a te Giovanni, oh Signore, in questo mandato che tu gli hai affidato, e che lui possa, oh Signore, afferrare i tuoi principi, la tua visione e la tua forza per portare avanti quella che è la tua Chiesa, oh Signore. E Signore, noi lo benediciamo in tutto il percorso suo e tutto quanto avverrà, Signore, anche nei momenti bui, noi crediamo fermamente che tu sarai al suo fianco. E Gesù, grazie ancora per tutti che si danno per questa opera. Noi crediamo, Signore, che la visione tua sta al di sopra di ognuno di noi, ma noi siamo la tua visione. Grazie, oh Gesù, grazie per Giovanni. Amen. Amen. Amen. Amen. Dobbiamo prendere posto ancora per 5 minuti. Grazie che ci siete ancora. Grazie per il tempo che stiamo insieme investendo, perché è tempo di qualità per vedere quello che di grande Dio vuole farci vedere. Vedremo grandi cose a Mottola. Amen. Ci sono tanti altri cambiamenti che come Chiesa stiamo vivendo. Stiamo cercando di migliorare e implementare la visione dei gruppi familiari. Ci sono cambiamenti anche lì, e quello che noi crediamo è che Dio chiama ogni credente ad essere una persona che discepola, una persona che risponde al mandato di Cristo Gesù di andare a fare discepoli. Infatti è parte del nostro motto, una chiesa che crede e che ubbidisce al grande comandamento e al grande mandato. E quindi il nostro desiderio è che sempre più persone, sempre più credenti possano abbracciare questa chiamata di fare discepoli. Vogliamo vedere sempre più capogruppi, vogliamo vedere sempre più persone che siano lanciate in quella che è l'avventura di guidare un gruppo familiare, più o meno piccolo o grande che sia, per discepolare altre persone e per, come dico io sempre oramai, vivere delle relazioni che sono intenzionalmente incentrate su Cristo Gesù. Questo è il gruppo, è vivere delle relazioni che mettono Cristo Gesù al centro, il relazionarci, il parlare, il rivedere la predica della domenica, il pregare insieme, il servire, è tutto parte della vita del gruppo ed è un modo per essere intenzionalmente connessi mettendo Cristo al centro. E questo, da questo punto di vista, voglio incoraggiare tutti i capogruppi che sono qui presenti a stimolare i gruppi che guidiamo ad essere sempre più parte della vita di Chiesa. Abbiamo il desiderio che il tutto sia vissuto in connessione, che non ci sia l'incontro della domenica, l'incontro di condivisione, gli upside down, mottola, i gruppi, come delle cose che sono isolate, a sé stanti. Vogliamo che tutto sia il parte di tutto e ci sia connessione. E infatti negli ultimi mesi abbiamo cominciato ad attivare i gruppi per turnazioni nel servizio domenicale, e quindi ora ogni gruppo della Chiesa con una cadenza di 2 mesi si ritrova a servire qui la domenica mattina o la domenica insieme. Facciamolo, perché questa è parte dell'essere Chiesa, non solo vivere il gruppo infrasettimanale, ma portare quel gruppo a vivere la Chiesa la domenica e a partecipare da protagonisti in una maniera attiva. Ed è bellissimo perché un'ora prima dell'incontro di Chiesa, ora abbiamo sempre una mezz'ora dedicata alla preghiera per l'incontro e poi al servizio insieme. Stiamo lavorando a quello che è un manuale per rendere ancora più facile quello che è il lavoro dei capogruppi e quindi dare un manuale per delle indicazioni chiare su come puoi guidare un gruppo. Abbiamo già attivato il fatto che abbiamo un documento guida nel guidare il gruppo, abbiamo un documento guida che ci dice, ci dà il riassunto del messaggio della domenica, delle domande chiave, dei punti di preghiera, ed è tutto così facile ed è per agevolare e facilitare tutti i capogruppi a fare qualcosa che anche ci veda uniti, perché il gruppo poi non deve diventare una chiesa a sé stante, un nucleo distaccato dalla visione di Chiesa, ma vogliamo passare anche attraverso il gruppo tutta la vita di Chiesa e anche le notizie che ci riguardano. Infatti in quel documento guida trovate a volte notizie, troverete notizie e punti di preghiera che riguardano Marta o che riguardano nuove attività che stiamo iniziando come Chiesa. È tutto per essere parte della stessa casa, della stessa famiglia, direzionata verso quell'unica direzione che abbiamo e visione unitaria. Poi abbiamo cambiamenti che riguardano l'avvicendamento anche negli upside down, anche lì abbiamo cominciato una nuova rete di gruppi per far uscire gli adulti degli upside down, no? I più maturi degli upside down, quindi tutti gli over 28 che si erano parcheggiati un po' negli upside down e si credevano eternamente giovani, li abbiamo cercati di far uscire da lì, da quel contesto. Vedete, sentite mormorare, questi sono proprio loro, e li abbiamo inseriti ora nella vita di Chiesa e vogliamo ringiovanire ancora di più il ministero dei giovani, vogliamo vivere un avvicendamento anche lì, quindi nuovi leader. Sara e Vito lasceranno il gruppo dei giovani in quest'anno, quindi avrete notizie anche su questo, ed è tutto molto entusiasmante, perché è un modo per rilanciare e credere in nuovi leader e aumentare il numero di operai nella messe che è così grande. Dobbiamo comprendere questo, che quanto Gesù dice è vero. La messe è talmente grande che la proporzione sarà sempre in difetto. Gli operai sono sempre molto pochi. Quindi quando viene fuori un nuovo leader, non significa che hai perso un'occasione o che c'è ora è stato lui, è stato Giovanni scelto, no? C'è talmente tanto lavoro da fare che se vuoi guidare un gruppo, che se vuoi guidare un ministero, che se vuoi guidare, sei il benvenuto, sei nella chiesa giusta per darti da fare ed essere un operaio. Ma non cerchiamo un titolo, non cerchiamo un riconoscimento dagli uomini, cerchiamo di servire insieme la stessa visione. E poi ci sono cambiamenti che hanno a che fare con tante altre aree. Stiamo sognando già per il 2017, pensate un po', stiamo già sognando per quello che possiamo attivare nel 2017. Si sta parlando di una conferenza di chiesa che vogliamo fare per alimentare quella che è la visione che noi abbiamo come chiesa e possibilmente anche aiutare e incoraggiare le altre chiese vicine e lontane che ci vedono anche come un modello da seguire. E sapete, fare chiesa non è un evento che tu cominci dall'oggi al domani, è qualcosa che costruisci. Per questo l'apostolo Paolo parla di se stesso come un abile architetto e parla di fondamenta, parla di costruzione, e tutto questo richiede tanta guida da parte dello Spirito Santo e anche tanto tempo. E noi abbiamo un bagaglio enorme come Chiesa, perché abbiamo decenni alle nostre spalle che ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi e possiamo essere di incoraggiamento per altre chiese che vogliono anche crescere in questa direzione. Siete contenti di questo? Lo potete dire anche al vostro volto, farmi un sorriso. Siamo felici di questo e abbiamo tante altre cose in serbo per ciò che ci sta davanti, ma non ho neanche il tempo di citarle. Quindi quello che faremo ora è alzarci in piedi e cantare questo che è un canto perfetto alla luce di una serata come questa. Noi corriamo, amen? Noi corriamo verso tutti quei traguardi che il Signore ha in mente per noi. Amen? Amen, amen. Diamo il tempo a Letizia. Vogliamo concentrarci su Dio. Io credo che quello che abbiamo sentito è anche una chiamata e richiede anche una scelta. Non credi che questa sera devi scegliere qualcosa? Io sì. Io non voglio essere parte della maggioranza, io voglio essere parte di quella minoranza che crede. Io voglio essere un Caleb, io voglio essere un Giosuè. Io voglio avere una visione che è profetica nel positivo, non nel negativo. Io voglio confessare i sogni di Dio su questa chiesa, sulla mia vita, sulla mia famiglia, su quello che noi siamo. Io voglio che la mia bocca sia uno strumento per ingigantire, accrescere e far avanzare il regno di Dio. Sono tutte scelte. Io non voglio credere alle mie emozioni, ai miei sentimenti. Io non voglio dare ascolto alle mie emozioni. Io non voglio quell'emozione che dice è impossibile. Io voglio quella fede che mi porta a dire si può fare. Si può fare. Quello spirito io voglio. E sapete, in Numeri 14 parla molto chiaro che Dio dice che ha visto in Caleb e Giosuè animati da un altro spirito. Qual è lo spirito che sta animando te in questo periodo, in questa settimana, in questi giorni, in questo momento? Davanti a tutto questo, che spirito si sta animando dentro di te? Quello delle 10 spie o quello delle 2 spie? Uno spirito che dice io voglio le conquiste di Dio, io voglio vivere una vita straordinaria, costi quel che costi, io voglio raggiungere quei traguardi, io non voglio limitarmi a quello che i miei occhi vedono, non voglio limitarmi a vedere i giganti, voglio vedere il latte e il miele e voglio credere in questo. Facciamo questa scelta questa sera, e se non hai lo spirito giusto, chiedi a Dio in questo momento, io voglio pregare per te in questo momento, che lo Spirito Santo possa animare noi come Chiesa, che lo Spirito Santo ci possa animare in quello che diciamo, che lo Spirito Santo ci possa animare in quello che scegliamo, nelle relazioni che abbiamo, negli appuntamenti che facciamo, nei gruppi che guidiamo, nella Chiesa di cui siamo responsabili, nella quale portiamo avanti la visione di Dio. In questo momento noi veniamo davanti a te, Padre. Chiediamo che lo Spirito tuo possa animarci. Io lo prego per tutta la Chiesa, a partire da queste persone qui. Vogliamo il tuo spirito, vogliamo la tua visione, la fede tua nel credere nei sogni tuoi. Vogliamo essere Caleb, vogliamo essere Giosuè in questo momento. Tutto ciò che non vuole essere questo, noi lo rifiutiamo. Ogni bastone tra le ruote, ogni impedimento, ogni parola bugiarda, ogni tentativo del maligno di demoralizzarci, di ridimensionare la visione, di portarci ad avere nostalgia per le cose che stanno indietro, pare, noi lo rifiutiamo nel nome tuo e chiediamo il tuo intervento. Che noi possiamo essere una Chiesa libera di questo. Libera, Padre, da quello che il tentativo del diavolo di fermare il tuo popolo che avanza. Noi vogliamo entrare in battaglia, noi vogliamo fare guerra, noi siamo disposti a combattere e vogliamo vincere non nelle nostre forze ma nelle tue, Padre. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo in questo momento, ti invochiamo, chiediamo a te, Spirito Santo, di animarci, di animare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, di darci nuove forze, di darci un nuovo coraggio, di darci una nuova spinta in questo momento nel credere nei sogni e nelle visioni che tu ci hai affidato. In questo momento noi scegliamo te, Gesù. Noi scegliamo la vita straordinaria che tu hai in mente per noi. Noi scegliamo i piani che tu hai precedentemente preparato affinché noi li compiamo. Noi scegliamo la terra promessa. Non vogliamo il deserto, vogliamo la terra promessa, Signore Gesù. Vogliamo te. E te lo diciamo con tutto il nostro cuore, in piena umiltà. E ti chiediamo di continuare ad animare la tua Chiesa e a portarci avanti verso quei territori nuovi che tu hai per noi. Alleluia, una Chiesa piena di fede, dice. Amen e amen. Noi corriamo. Amen? Noi corriamo, vai, Leti.